who's there to help her up. Il prend pas soin de moi, pendant mon cœur il fait trop froid. Dans les rues je traîne ma peine, en indifférence générale. Je taille ma route, je taille ma route. Il sera près de moi quand je serai au plus bas. Il me dira lève la tête, tu vaux mieux que ça. Short thoughts of a young man in a rooming house. This messed up life, this poverty, he can do without. But what options does he have when our hope is gone? A brother gotta eat, plus all the henny and all the smoke is gone. All it takes is one quick stick, gotta fill his belly now. Which Vic should he pick? He does his dirt all by his lonely. Forget his homies, he doesn't feel like splitting any loot. Them suckers be acting phony. So much potential but all gone to waste. Now he lurks in the night with a loaded gun on his waist. Too late for this lost soul. His qua, tocca a noi, prove tecniche di trasmissione alle ore 21.07 naturalmente dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e attraverso il sito www.ondarossa.info. Inizia questo spazio da adesso sino alle 22.30 circa. Ricordiamo anche l'indirizzo di posta elettronica di questa emittente che è ondarossa@ondarossa.info. Domani sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder e sul sito di questa radio comparirà la playlist e il podcast di questo programma. Un programma che inizia dopo una settimana di assenza andando un po' a sentirci di nuovo in The Nursery con questo loro ultimo lavoro dal nome The Seashell and the Clergyman. Un controverso film diretto da Germain Dulac che prende spunto da Antonin Artaud, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Naturalmente in The Nursery si esprimono sul terreno che è loro congeniale, ossia il neoclassical, il martial, atmosfere oscura in genere, con le quali ci deliziano ormai da più di 30 anni. Salutiamo comunque, prima di iniziare, Maia dalla Sardegna, Lucia Cagliazza, Lupsi in quel di Udine, Nicola Locci, anche lui dalla Sardegna, Raffaele Pezzella in quel di Napoli, Lucia qui da Roma, Enkil, non credo dal Piemonte, non mi ricordo bene in questo momento, comunque lo salutiamo, Cristiano Bocci, lo salutiamo, Chemical Resistance da Genova, Like a Wake qui da Roma. Dunque, in The Nursery ci ascoltiamo quattro brevi estratti da questo lavoro. Festival, Destructuration, Confessional e Descent. Thank you. Intanto si sono aggiunti altri affezionati ascoltatori di questo spazio, Isa Etual da Milano, il buon FM, musicista elettronico qui di Roma, altrettanto ottimo musicista, Eloquence Recycle, dei Recycle stessi. Giovanni Lisi lo risalutiamo di nuovo e lo chiameremo, come dire, in appello più avanti con Cordis Cinti Serpente. Peraltro Giovanni Lisi ci dà un'informazione che sinceramente non sapevo, che il nome in Denarseri viene dall'immaginario che ruotava intorno al Tempio della Gioventù Psichica, in quel circuito musicale di Psyche TV e dintorni, che ha influenzato molti musicisti degli anni 80, 90, ma anche odierni. Buonasera anche a Francesco Radius della Black Ash Records. Gli Indenarseri sono sempre stati molto abili nel sonorizzare colonne sonore, compreso questo di Seashell and the Clergyman. Andiamo avanti, ce ne andiamo in Polonia. Ci andiamo a sentire un gruppo che personalmente ho avuto il piacere di apprezzare in dimensione live al Wrocław Festival. Sto parlando dei Contemplatron, una realtà molto interessante che ha privilegiato nella loro struttura musicale sicuramente le atmosfere provenienti dal Tibet, musicalmente e culturalmente parlando. E abbiamo qui il primo lavoro del 2005 dal nome Antarabhava The Six Realms, o Antarabhava, chissà quale sarà la pronuncia esatta. Un album che uscita per la Wrotitz Records. Ci andiamo ad ascoltare il brano che lo apre, dal nome molto esplicativo, dal nome Mantra. Thank you. dimensione decisamente ascetica, quello di contemplatron. Un progetto dunque polacco, come dicevo, che vede tra i componenti il fondatore Jarosław Wierny. Ma anche la partecipazione attiva alle varie percussioni, campane tibetane, eccetera, di Dominika Gorniasniak. Effettivamente, al di là del tempo e dello spazio, tra le cose più ritualistiche o sacrali che ho mai ascoltato, un spettacolo anche live decisamente intenso. Vi consiglio caldamente, c'è anche un profilo Bandcamp da andare a vedere. Questo era Antarabava, The Six Realms. Giovanni Lisi effettivamente fa una interessante osservazione, come ci possono essere anche dei punti in comune, pur partendo da culture e sensibilità forse diverse, con il suo progetto Cordis Cinti Serpente. Un progetto che andiamo, guarda caso, a sentire. Andiamo a risentire quindi il primo lavoro, che è stato ristampato nel trentennale della sua esistenza, recentemente in supporto digitale, anche con l'ausilio di Raffaele Pezzella, e naturalmente si va anche a salutare Mario Cardinale dell'Industrial Holocaust Recordings. Ci ascoltiamo questa sera altri due brani di questo album, il misterioso, almeno dal titolo, A, e Giovanni ci spiegherà cosa significa questo nome, e la conclusiva PVN. Un saluto anche a Fulvio Biondo, tornato tra noi dopo un po' di tempo di assenza per motivi lavorativi, se non erro, lo salutiamo. Fulvio Biondo di Solar Lodge, noi ci godiamo questi Cordis Cinti Serpente. E grazie a Giovanni che ci spiega che quelle due A significano Argentinum Astrum. E chissà che abbiano qualcosa che spartire naturalmente con Aleister Crowley. L'altra traccia, ho cambiato idea e metto Astral Wandering, perché PVN l'abbiamo ascoltata due settimane fa. Ancora Cordis Cincti, Serpente. provvidenziale dunque recupero di questo Cordis Cinctis Serpente a 30 anni di distanza, digitalizzato e con lo zampino di Raffaele Pezzella. L'album vedeva anche la collaborazione nei suoni e nella composizione probabilmente anche di Ivan Iusco, indimenticabile protagonista della Minus Abens e di altri suoi progetti, Nightmare Lodge per esempio, It. Giovanni Lisi, uno dei personaggi più interessanti dell'elettronica più intransigente, anche lui ci ha regalato momenti di pura ascesi e lo salutiamo in quel di Bari. Sempre Italia, andiamo un po' a scartabellare di nuovo anche in questa sede, dopo averlo fatto anche in Disorder. Andiamo, dicevo, a sentirci questa Ambient Noise Atmospheric Livorno Ethnic volume 2, quindi Anale volume 2, un compendio assemblato e ideato attraverso la Black Ash Records di Francesco Radius, che è andato poi in giro e ci ha fatto scoprire una scena assolutamente stimolante, quella livornese, Livorno e anche Pisa, c'è anche qualcuno di Pisa, e dove, dopo aver apprezzato alcune tracce in Disorder, per l'appunto questa sera ce ne ascoltiamo un paio anche qui in prove tecniche, e cominciamo con Lorenzo Saini che ci fa ascoltare Stormi. Andiamo avanti, lui invece è un vecchio amico di prove tecniche, Emiliano Pietrini, come Globo Oscuro, veramente uno dei progetti più interessanti degli ultimi anni. Questa è The Noise Air of Misanthropy. Thank you. Benissimo, era Anale volume 2 in questa parte, anche questa così meditativa e rarefatta e spirituale, passatemi il termine. Come ho detto, una compilation molto varia che invece poi si sviluppa su, come in questo momento, su cose più quasi psichedelico cantatorali. Riprenderemo questi temi attraverso Anale volume 2 la prossima settimana. Andiamo avanti di compilation in compilation, andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella e terminiamo l'analisi alquanto approfondita che abbiamo fatto di Middle East Music Survey, Anthology of Contemporary Music from Middle East, la musica e gli artisti provenienti dal Medio Oriente in tutte le nazioni che lo vanno a comporre. Questa sera, per esempio, dall'Iran ci andiamo ad ascoltare Nick Talis con The Human Demise e dalla Turchia Cenk Ergun con un pezzo che invece si va a chiamare Amsterdam. le inquiete divagazioni elettroniche di Nictals, di Mohamed Reza, e ovviamente vado a ringraziare Raffaele dell'ausilio di informazione. Uno degli artisti più interessanti della ottima scena iraniana, come abbiamo anche potuto appurare dalla recente compilation. Questa invece è la Turchia rappresentata da questo breve brano dal nome Amsterdam di Cenk Ergun.